Bene, diamo inizio a questo incontro e noi abbiamo il tempo dedicato a questo nostro incontro è di 2 ore, anche perché c'è ovviamente la sollecitazione legata alla partita dell'Italia e quindi credo che finire in poche signore non particolarmente interessate alla partita sarebbe non particolarmente brillante. Questo incontro è promosso dalla Rete Laica di Bologna in collaborazione con l'Associazione Orlando. È presente fra di noi Fernanda Minuz, che è la Presidente dell'Associazione Orlando, lo facciamo qui al Centro di Documentazione della Donna e non a caso. Questo incontro è promosso dalla Rete Laica di Bologna e è una delle iniziative che dà il segno. Anche questa costituisce il filo e la continuità di un impegno della Rete Laica attorno ovviamente al tema dell'affermazione e della difesa del principio in modo intransigente della laicità, laicità per noi inteso come luogo di valori che coincide con la democrazia e le sue regole. Per noi è un incontro importante, da, ripeto, continuità, un filo di lavoro che è partito in modo molto significativo, non è partito esattamente con quello, comunque ha avuto un punto molto significativo con la presentazione delle firme raccolte a sostegno della delibera che ha poi assunto il Comune di Bologna a scadenza del Consiglio, della consigliatura per il registro del testamento biologico, è stato significativo perché in realtà questa iniziativa ha poi determinato anche un dibattito politico a Bologna in città che ha portato a questo esito, l'assunzione della delibera. Adesso aspettiamo dalla commissaria Cancellieri di avere più concretizzazione. Naturalmente non ci basta questa delibera. Poi abbiamo proseguito su temi che naturalmente sono fortemente incardinati dentro la questione della laicità, la difesa della scuola pubblica e laica, tutto il tema che riguarda il riconoscimento delle coppie di fatto e matrimoni omosessuali. Questa sera abbiamo colto l'occasione dell'uscita di 2 libri curati a 4 mani dal professor Carlo Flamini e dal professor Corrado Melega, uno sulla la pillola RU486, il secondo sulla pillola del giorno dopo. È stata in realtà un'occasione, un pretesto questa della presentazione dei libri, dell'uscita e della pubblicazione recente dei 2 libri, perché ci interessava molto come Rete Laica, come donne, avere un incontro con 2 davvero grandi amici delle donne a Bologna, ma non solo delle donne bolognesi, ma a livello nazionale, 2 grandi combattenti per l'affermazione del principio della laicità in questo paese. E c'è una connessione stretta con il tema del testamento biologico, perché ciò che è in ballo oggi riguarda la libertà di scelta e anche la dignità delle persone naturalmente, e riguarda la libertà per ogni singola persona rispetto alle decisioni da prendere sul proprio corpo. La connessione col testamento biologico è evidente, ma anche tutti i temi legati alla procreazione e alla possibilità appunto di una maternità libera e responsabile sono ugualmente fortemente connessi al tema della libertà di scelta delle donne, fortemente messa in discussione in questi anni e in questi mesi, e non è mai cessato questo attacco, dai poteri, poteri molto forti, potere delle gerarchie ecclesiastiche, l'invasività sulla politica delle gerarchie ecclesiastiche che non hanno mai rinunciato in questi anni forti anche di governi di centrodestra molto subalterni e molto poco autonomi, ma forse anche dentro il centrosinistra qualche problema in più andrebbe, come si dice, riflettuto. rispetto a una chiarezza di identità per quanto riguarda i temi della laicità, il potere delle gerarchie ecclesiastiche, il potere maschile che non ha mai rinunciato a riappropriarsi del controllo sul corpo delle donne. Abbiamo tutti presente il faticosissimo e tremendamente fallito referendum sulla legge 40 sulla fecondazione assistita, ma non è mai cessato l'attacco alla legge 194. Non è mai cessato questa decisione dell'AIFA di mettere in commercio, commercializzare la pillola RU486. È stata una decisione presa l'anno scorso molto importante. La pillola, la RU486, entra di fatto nei livelli essenziali di assistenza, quindi non c'è più una discrezionalità dell'organizzazione sanitaria regionale a farne uso, ma è dentro i livelli essenziali di assistenza. Pur tuttavia, vediamo, leggevamo l'altro giorno sui giornali anche questa vicenda di Roma, nel Lazio, la Polverini non ha fatto uscire le linee guida, qualche azienda sanitaria ha deciso per conto suo. Insomma, questa pillola rimane comunque, l'uso, l'utilizzo di questa pillola rimane sotto un attacco ideologico pesante, una pillola, la pillola dei veleni, il prezzemolo tecnologico, è stata minacciata la scomunica per chi usa la, per le donne che usano la pillola e per i medici che somministrano la pillola. Insomma, siamo a, quelle, a quegli effetti speciali che solo gli integralismi di alcune gerarchie ecclesiastiche sanno così rappresentare, potentemente rappresentare. Di fronte a tutto questo è evidente che c'è una politica purtroppo che ha dei punti di debolezza e di scarsa autonomia. È da molto tempo questo, ahimè, che sta succedendo. Dovremmo tutti chiederci quando e in che modo e con quale legge questo paese si potrà presentare come paese civile, con una legislazione civile di fronte a temi così dirimenti e così importanti. Io lascio la parola adesso innanzitutto al professor Carlo Flamini. Voglio solo dire che l'Emilia Romagna ha iniziato ad utilizzare la pillola RU486 già dal 2005-2006, ma su questo Corrado Melega ci potrà dare delle informazioni molto interessanti, già peraltro anticipate nella conferenza stampa che abbiamo fatto per presentare questa iniziativa. La Regione Emilia-Romagna quindi sta da tempo utilizzando la RU486 in regime di day hospital. Voi sapete che ci sono gli ambienti governativi che pensano invece di rendere obbligatorio il ricovero ospedaliero per 3 giorni. Io credo che questo sia un fatto molto importante per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna. Dicevo, in uno scenario che è in uno scenario molto preoccupante perché per quanto ci riguarda come donne. Io voglio solo dire che tutto ciò che si sente dire, viene affermato, la scarsa senso di responsabilità, la pillola RU486 che rende meno dolorosa e più semplice il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, con l'idea che siccome la pena dell'aborto per le donne va assolutamente gestita con il massimo di dolore, con il massimo appunto di pesantezza, di drammaticità sia dal punto di vista psichico che fisico, voglio dire che è la conferma della legge 194 che ha resistito a tutti gli attacchi, naturalmente conforta in questo giudizio e che in questo paese questa legge ha funzionato con una riduzione delle interruzioni volontarie di gravidanza grazie a un grande senso di responsabilità e a una grande etica e moralità delle donne. Ci sono purtroppo donne che sostengono che questo potrebbe essere una pillola che risolve qualche capriccio o qualche gesto poco meditato, qualche, come si dice, leggerezza. Io penso che non sia proprio così. Penso che la Regione Emilia-Romagna da questo punto di vista abbia avviato un regime di applicazione molto importante. Penso che la Regione Emilia-Romagna dovrà ancora affinare o riprendere in mano, mi auguro, tutto il tema dei consultori, perché le donne di questa regione sono state determinanti negli anni 70 per costruire questa grande rete di consultori. Sono uscite recentemente delle linee guida, pensiamo come Rete Laica che queste linee guida non possono contenere nessuna ambiguità per quanto riguarda l'accesso del volontariato dentro i consultori, non si può. Ricordo a tutti, la settimana scorsa abbiamo letto Formigoni che da 250 euro alle donne 4 milioni e 500 mila euro alle donne per disincentivarle dall'interruzione volontaria della gravidanza, sono proprio finalizzate a disincentivare l'IVG, l'interruzione volontaria della gravidanza, la cosa che è sconcertante, inaccettabile, irricevibile, sbagliata, vergognosa è che questi 4 milioni e 500 mila euro vengono gestiti non dall'istituzione pubblica, ma vengono gestiti dai centri per la vita, che costringeranno le donne a sottoscrivere un protocollo, che è un protocollo vincolante, sulla base del quale poi i centri per la vita decideranno se assegnare o no i 250 euro al mese. Questo non può succedere, e qualche tentativo di aprire anche in questa regione i consultori all'associazionismo, non perché non vada bene l'associazionismo, ma perché le istituzioni, ogni istituzione deve svolgere il suo ruolo, e il ruolo pubblico è un ruolo irrinunciabile e che va assolutamente affermato in qualsiasi circostanza. Altra cosa è se il pubblico si avvale della realtà dell'associazionismo circostante, che è anche ricco e molto vario in questa nostra regione. Io chiudo questa cosa perché lascio subito la parola a Carlo Flamigni, ma io ho visto attentamente il libro sulla RU 486 in particolare, e c'è una conclusione che io trovo sia una conclusione, siccome forse, non lo so se Carlo Flamigni o Corrado avrebbero voglia di leggerlo, avevano intenzione di leggerle, però io la voglio leggere perché è una dichiarazione politica. In un paese normale, medici, amministratori e politici si siederebbero attorno ad un tavolo per discutere su tutti gli aspetti legati all'introduzione di un nuovo farmaco, avendo in mente solo ed esclusivamente l'interesse delle cittadine e dei cittadini, proprio come avvenne più di 30 anni fa, quando uomini e donne di opposte tendenze trovarono una via comune confermata da pochi anni dalla stragrande maggioranza del popolo italiano e decisero di approvare una legge sull'interruzione volontaria della gravidanza. I vari Sacconi, Gaspari, Palumbo, Tomasini, Roccelle, Morresi, i vari radicali che oggi sbraitano nelle file dei nuovi crociati dovrebbero sempre avere in mente quel 68%. È troppo chiedere a tutte queste brave persone di cercare almeno di ricordare di essere stati chiamati a posti di prestigio e di potere come responsabili del benessere, della laicità e della libertà del nostro paese e dei diritti dei suoi cittadini, donne e uomini, senza distinzione, cosa un po' diversa dalla scelta di svendere tutto proprio per 4 soldi al Vaticano. Vi ringrazio, chiedo a Fernanda se viene a nome dell'Associazione Orlando, e poi la parola a Carlo Flamigni. Voglio presentare, oltre al professor Flamigni e Corrado Melega, le nostre ospiti, che sono Monica Mischiati dell'Associazione Luca Coscioni, Erika Tommassone che è della Commissione Bioetica della Chiesa Valdese, Betty che è arrivata delle Sexy Shop. Grazie. Io mi limiterò a un saluto e a un breve commento sul fatto perché appunto abbiamo immediatamente accolto la richiesta di Rete Laica di poter tenere qui questa iniziativa. È ovvio che l'Associazione Orlando, il Centro delle Donne di Bologna, è una istituzione che dalla fine degli anni 70 si occupa della libertà delle donne, E quindi non potevamo che dire di sì, è nella natura delle cose essere presenti qui, aver sostenuto, appoggiato questa iniziativa, aderito pienamente. Perché, come già prima diceva Katia Zanotti, è evidente che quando si parla di laicità dello Stato si pensa, almeno noi pensiamo, riguarda certamente donne e uomini, ma certamente i temi della laicità dello Stato, i temi in campo etico e bioetico, riguardano soprattutto la libertà delle donne. La libertà delle donne che è messa in discussione in mille modi, anche in questo accanimento nel volere necessariamente punire quello che può essere, prima si diceva, un errore, una svista, ma quello che può essere anche ed è soprattutto una libera scelta di donne adulte e consapevoli. Se ci fosse la necessità, in alcuni casi specifici, di un sostegno di tipo psicologico, di tipo sociale, eccetera, sarà di volta in volta un'equipe che dovrebbe essere di nuovo riformata presso i consultori, che invece sono o in svendita o in chiusura o addirittura in affidamento a forze come il Movimento per la Vita. Ecco, in quei casi e solo in quei casi ci potrà essere percorsi di sostegno e di aiuto, altrimenti noi crediamo nella libertà e nella responsabilità di donne adulte e consapevoli di scegliere della propria vita. Ecco perché siamo qui e non rubo altro spazio. Grazie. Bene, cari amici, voglio giustificare alcune cose. La prima riguarda il fatto che Corrado Meneghe e io abbiamo scritto insieme questo libro. Ogni tanto qualcuno mi dice: ma come mai vi siete messi insieme? Come ci siamo messi insieme? Siamo fidanzati da quando io avevo 30 e lui 20 anni, insomma, praticamente. Quindi difficile immaginare. È il mio migliore amico. Se devo fare una cosa seria, perché non la devo fare con lui, insomma, mi sembra. Ça va sans dire, ha detto anche una frase in francese. La seconda cosa è perché il titolo, non tutte le streghe sono state bruciate, questo ha a che fare, secondo me, con l'aborto e la contraccezione, perché tutte le erbe che servono per abortire e per non avere gravidanze, e vi ricordo che per moltissimo tempo non era possibile distinguere fra le erbe, perché le donne non avevano la percezione di essere gravide finché non sentivano muovere il bambino, e il problema dell'amenorrea giocava un ruolo molto secondario. In epoche in cui la fame era molto diffusa, non mestruare era l'abitudine di moltissime donne. Quindi prendere un'erba, fare a pezzettini una radice, poi bollirla e bersi il succo, e poi dopo mestruare, cioè avere utilizzato un emmenagogo, era il modo per controllare le nascite. Fino a che chi faceva queste cose non ha cominciato a sentire dietro alla nuca il fiato caldo dell'Inquisizione, ma un'Inquisizione molto precedente a quella di cui siamo abituati a parlare. Il potere delle religioni che li impegnavano ad essere più cauti nel raccomandare questo uso di controllo delle nascite. E così la conoscenza passò alle ostetriche, alle mammane, alle balie, alle donne anziane, le quali hanno amministrato per secoli il problema della salute femminile per tutto quello che aveva a che fare con il concepimento, la vita sessuale e anche la vita della famiglia. È stato un reale disastro quando la ginecologia e l'ostetricia, soprattutto l'ostetricia, sono passate nelle mani dei ginecologi. È stato un grande peccato, le donne l'hanno pagata molto cara. Immaginate questi medici che non avevano mai visto partorire una donna, che improvvisamente si trovarono dotati di strumenti straordinari che servivano prevalentemente a fare a pezzi i bambini, perché tutti i primi strumenti avevano anche questi nomi terribili: la trivella di questo e di quell'altro, il cranioclaste, lo schiacciatore del cranio. Questi erano i nomi degli strumenti. Li hanno usati come sapevano, e sapevano pochissimo, e soltanto molto molto lentamente si sono solo parzialmente sostituiti all'opera saggia ma certamente preziosa delle mammane. Tenete conto che i racconti delle donne, nessuno li ascolta più, parlavano di gravidanze che andavano male, che improvvisamente nell'atmosfera amicale di un gruppo di donne che ridevano, scherzavano, dicevano parolacce, cantavano canzoni oscene, si raccontavano le cose che non avrebbero mai detto a nessuno, tanto lo sapevano che di lì non usciva. Ecco che improvvisamente il bambino che era stato messo di traverso dal caso si rimetteva con la testa in giù e veniva al mondo, perché le donne sono sempre state assistite, quando avevano il potere, anche dalla loro magia. Perché no? Accettiamolo, è andata così. C'è la mia strega preferita qui, che è la signora che ha applaudito. Noi ci scriviamo email, lei si firma Maga Magò e io mi firmo Mago Merlino, e abbiamo ormai una lunghissima... Vabbè. Allora che cosa accadde? Accadde che le streghe cominciarono ad essere bruciate. Si resero conto del grandissimo rischio, accettarono i compromessi per sopravvivere. Sapete che quando gli fecero fare i primi giuramenti, i comuni, le università, non gli facevano dire prometto che non farò, ma prometto che non farò più. Non bollirò più i bambini per prendere il grasso e ungermi tutta per andare a volare intorno alla quercia al sabato insieme con le streghe, il diavolo e Diana. Non farò più. Prometto che quando seppellirò i bambini vivi testimonierò che era presente una donna della buona società, una donna affidabile che va sempre in chiesa, che può testimoniare che erano vivi ma non sarebbero sopravvissuti. Questo è l'estratto di un giuramento fatto dalla statica in Inghilterra. Quindi il fatto che non siano state bruciate tutte le schede, le streghe, ha un senso molto preciso. Qualche strega è rimasta, evidentemente, fra quelle poche persone che hanno continuato a studiare il modo per fare abortire le donne senza farle soffrire troppo, per facendole soffrire quel tanto che è indispensabile, ma non di più, non di più di così. Le donne lo sanno, lo dovrebbero sapere, perché tutte le erbe dei monti, le erbe dei campi sono scomparse e hanno dovuto continuare ad abortire con le erbe dell'orto. Le prime donne che io ho visto morire di aborto, le ho viste morire all'ospedale di Ferrara, uccise dall'apiolo, che è il decotto di prezzemolo. Le ho viste morire tre, ho avuto per un attimo la voglia di fare un mestiere diverso, il dentista non mi pareva una brutta scelta, e poi ho continuato, forse per pigrizia. Non sono sicuro che sia stata una cosa fatta bene. Il mifepristone è il risultato di questo bell'intervento fortunato di qualche strega, che mette nelle mani dei medici un altro strumento, non straordinario, non meraviglioso, ma uno strumento che consente almeno una scelta. Qualcuno sceglierà in un modo, qualcuno sceglierà in un altro, hanno diritto di farlo, perché impedirglielo? Pensate che il mifepristone fu sintetizzato da Beaulieu, che è noto in Italia solo per una ragione, perché è stato il moroso della Sofia Loren. Lui è uno scienziato noto, cioè nessuno se ne ricorda, ma essendo stato il moroso della Sofia Loren ha acquisito una certa notorietà. Fu sintetizzato nel 1980, gli esperimenti finirono nell'82. Pochi anni dopo, intorno all'88 se non sbaglio, la Roussel Ouklaff lo fece acquisire dal sistema nazionale sanitario francese, dopodiché si spaventò, perché immediatamente i gentiluomini della Chiesa Cattolica dissero: va bene, allora noi non compriamo più nemmeno uno dei vostri farmaci, e decisero di ritirarlo dal commercio. E il ministro della salute francese Claude Evin disse una cosa che è bella da sentire, pur essendo stata detta da un socialista: non posso permettere che il dibattito sull'aborto privi le donne di un prodotto che rappresenta un progresso della medicina. Dal momento in cui il governo francese ne ha approvato l'impiego, la RU486 è diventato di proprietà morale delle donne. È vostro, ne fate l'uso che credete, poi non sarà buono, a qualcuno non andrà bene, a qualche altro sì, ma è vostro. Allora, su che cosa vi potete basare per dire è nostro, ne facciamo un uso cauto ma sicuro? Ma mio Dio, tutte le grandi istituzioni che si occupano di medicina hanno detto che va bene. Sono stati fatti milioni di interruzioni di gravidanza col farmaco. E che cosa si erge contro questo farmaco? Pensateci un po', alcune preoccupazioni ingiuriose. La signora Roccella e la signora Morresi, che si offendono mortalmente quando le chiamo signore, ma mi sembrava invece che, beh, se mi chiamo signore mi sembra un atto gentile. Anzi, fatelo per piacere, signor Flamini, il compagno Melega, siamo qui riuniti. La signora Morresi dice che con questa facilitazione, dov'è la facilitazione? Non lo so, ci saranno più donne che vanno ad abortire. Cioè, una donna va ad abortire solo se è breve la coda che la porta a sedersi davanti al medico? È questo il concetto che hanno delle donne? Cioè le donne come esseri fragili, stupidi, indifesi, che bisogna prendere per mano, aiutarle a attraversare lo stagno, se no si annegano o si sporcano i piedi di fango? Questo è il concetto che hanno delle donne? Io lo trovo insultante, cioè credo che ci siano ormai tante e tante ragioni per cominciare a scavare dei fossi, li chiamiamo dopo trincee, ma a fare qualcosa di più che dire no, ecco, è forse arrivato il momento. Se fossi una donna, io non accetterei più che molte mie compagne vengano illuse da questi bravacci che le portano in televisione e gli dicono: vuoi fare carriera nella vita? Mettiti in mutande. E più piccole sono le mutande, più farai carriera nella vita. E se vuoi fare carriera politica, ti insegniamo noi una bella villa padronale con una piscina, che se vai lì diventi assessore. E questo è il concetto che ha questa gente delle donne? Io credo che qualche cosa bisogna dirgli indietro. Cioè, io chiedo a tutti di cominciare ad essere indignati. Ecco, credo che questa è la parola. Perché io sono indignato, non faccio confusione, non mi butto per terra e mi sporco solo, ma sono indignato. Allora, questa è la storia del mifepristone. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha valutato come farmaco sicuro, lo ha elencato fra i farmaci per i quali c'è tutta la prova possibile e immaginabile di una attività funzionale che non ha bisogno di particolari controlli. È un farmaco che può essere utilizzato. Corrado vi dirà che cosa si sta facendo per cercare di mettere degli intralci in questa strada che ha portato l'Italia con un ritardo straordinario nelle stesse condizioni della maggioranza dei paesi europei. Perdo qualche minuto anche per illustrarvi l'altro libro, e vorrei anche chiarire che noi, io e Corrado, non siamo qui a vendere i nostri libri, perché gli introiti vanno all'AIED. Ecco, io quando c'è un libro che vende un po', gli introiti c'è sempre un altro, non riesco mai a indovinare. Però qui gli introiti vanno all'AIED, che è un'antica associazione, l'Associazione Italiana di Educazione Demografica, della quale io tra l'altro sono presidente onorario. Passati 76 anni mi stanno dando un mucchio di presidenze onorarie, vorrei che smettessero. La pillola del giorno dopo, dunque, è un'altra cosa, non ha niente a che fare con l'aborto. Abbiamo sbagliato il titolo, abbiamo scritto dal Silfio al Levonorgestrel, in realtà dobbiamo scrivere dalla Coca-Cola al Levonorgestrel, perché la prima attività di blocco di una fertilità non desiderata è stata affidata dalle ragazze americane a Coca-Cola. Scuotevano forte la bottiglia, si infilavano il collo della bottiglia in vagina e lo spruzzo che entrava dentro la schiuma si doveva portare via gli spermatozoi. Ma gli spermatozoi sono molto più astuti di quello che voi ragazze pensiate. Ce n'è sempre uno nascosto dietro una piega della vagina che, appena andata via la Coca-Cola, lui rapidamente prende la strada che la natura in qualche modo gli... La struttura sta chiudendo. Vado avanti? Io mi sono spaventato. Però. Perché sembrava una voce che venisse... Era una voce femminile e questo mi consola. Io non avevo ancora parlato. Va bene. La struttura sta credendo. C'è un significato mistico di questo. Dunque, che cos'è invece la pillola del giorno? Il Silfio, intanto, che cos'è? Il Silfio è una cosa straordinaria, non c'è più. Era una cosa straordinaria. Il Silfio era un'erba, una pianta che cresceva nelle spiagge di Cirene. Voi sapete che quando le città greche avevano eccesso di popolazione, fingevano di sorteggiare i cittadini, in realtà sapevano chi sorteggiare. E poi gli facevano vedere una vecchia nave sbilenca che c'era in porto, diceva: salite lì, quella è la strada del mare, trovate un posto dove fare una nuova città. Cosa importante è che non torniate. Questi poveracci si trovarono sulle spiagge di Cirene ed erano convinti di morire di fame e di povertà. In realtà a Cirene cresceva il silfio, che è diventato, dopo non molto, uno dei commerci più straordinari. Cicerone diceva, ma non sarà silfio, per dire non costerà come l'oro, e del silfio parla Catullo, no? Quando dice quanti baci ci daremo, tanti quanti sono i granelli, della laserpice era Cirene, il laser era il succo del silfio. A cosa serviva? A tutto. Serviva a non far bambini, serviva alle donne in menopausa per non avere disturbi, serviva a tutto, serviva per abortire, era un farmaco miracoloso, purtroppo cresceva solo lì ed è scomparso. Allora, perché abbiamo scritto questo libro? Perché c'è una strana storia intorno a questa pillola del giorno dopo, che è una pillola che ha una sola attività, che è quella di impedire il concepimento. Impedisce il concepimento. Non ha niente a che fare con l'impianto dell'endometrio, non ha niente a che fare con l'aborto, impedisce che l'uovo si faccia fertilizzare, ne ritarda la messa in campo e una volta che anche venga messo in campo, venga confrontato da uno spermatozoo, non gli consente di fertilizzarlo. Su questa base sono state costruite un'infinità di menzogne e l'ultima cosa molto interessante è che recentemente i farmacisti hanno chiesto, stanno cercando di portare il problema in Parlamento attraverso una signora di cui non ricordo il nome, di avere l'autorizzazione a fare obiezione di coscienza, che è una cosa abbastanza bellina, perché non c'entra assolutamente niente la coscienza. Faccio molta fatica a immaginare una campagna più distorta e stupida di quella che viene fatta contro questa povera pillola del giorno dopo, che oltretutto, la Dio mercè, è priva di effetti collaterali. Siamo però alle soglie di un problema. Tra non molto arriveranno, perché sono già stati utilizzati in Europa e l'Europa li ha accettati, che vuol dire che anche l'Italia sarà costretta ad accettarli, nuovi farmaci che vengono utilizzati per la pillola come pillola del giorno dopo, ma che servono anche come abortigeni, perché impediscono l'impianto e forse fanno anche qualcosa di più. Che cosa succederà in questo benedettissimo paese quando arriverà il momento di vendere questi farmaci? Non lo so, lo vedremo, ma lo vedremo in tempi molto molto brevi. Ecco, io sono arrivato al termine di questo breve ragionamento che volevo fare. L'unica cosa che vi voglio, con la quale chiudo, è una brevissima lettura. Alla fine del secondo libro, io e Corrado Melega abbiamo messo quello che è successo negli ultimi 11 anni che riguarda la pillola del giorno dopo, e per il 2010 lo abbiamo fatto mese per mese. L'ultimo accenno è aprile, perché il libro è uscito poi alla fine d'aprile, primi di maggio, e dice: in aprile Flamini e Melega scrivono un testo fondamentale sull'argomento e chiedono di smettere di rompere le scatole alle donne. Associazione Luca Coscioni, a cui segue Erika Tommassone della Commissione Bioetica della Chiesa Valdese, un vostro punto di vista sulla base anche del vostro lavoro nelle associazioni. Grazie. Questo fischio? Grazie. Allora, parlo? No, è andato via. Allora, essere qui in questa assemblea, questa riunione pubblica, con, a parte Erika che ho conosciuto qui, Katia che frequento, però diciamo, io devo dire sinceramente, no, che Melega e Flamini mi danno un senso di, come dire, di ricordo, perché io ho cominciato la mia attività politica nel lontano 1977, e loro erano, magari molte persone che sono qui dentro più o meno, perché magari l'età di molte persone questa, e lo ricordavo con Melega all'ultimo, ci siamo incontrati a un dibattito sul testamento biologico. Io lavoravo con l'MLD, con il CISA, e Melega e Flamini erano i nostri riferimenti. Insomma, noi praticavamo disobbedienza civile con gli aborti, le famose pompe di bicicletta con cui la stessa Emma Bonino è stata fotografata di recente, insomma, scandalo totale, Emma Bonino praticava aborti con pompe di bicicletta, però diciamo che la mia attività politica è cominciata allora e quindi al di là del fatto che appunto siamo tutti invecchiati, siamo ancora qui che parliamo con difficoltà ancora di queste cose, perché non è che il nostro paese si sia, come dire, assestato e abbia accettato di buon grado l'interruzione volontaria di gravidanza, per la quale tutti, credo, abbiamo fatto battaglie su battaglie. La cosa però curiosa dell'epoca era che, diciamo così, la segretaria dell'MLD si chiamava Eugenia Roccella. E quindi io con Eugenia Roccella a quell'epoca facevo queste cose. Ecco mi hanno passato appunto la favola dell'aborto facile. Aborto facciamolo da noi, era questa la cosa con cui... Quella di qua, quella rossa, era questo che facevamo all'epoca. E la cosa curiosa che comunque, diciamo così, noi siamo tutti qui, però le parti si sono un po' mescolate. Devo anche dire che all'interno del libro, quello sulla RSU, in una parte nella quale i due autori raccontano la storia dell'aborto, devo dire che con molta onestà intellettuale, cosa che è difficile perché quando si fa la storia dell'aborto spesso nessuno cita i radicali, nessuno cita Emma Bonino, nessuno cita Pannella, Delle Faccio, Spadaccia. Mi sembra che nella vostra parte, in quella parte, voi abbiate effettivamente, di questo vi ringrazio perché avete raccontato la storia com'è stata, brevemente com'è stata. La cosa però, visto che Katia adesso ha citato quell'ultima frase finale, lo dico, ma perché magari anche con Melega l'ultima volta ci siamo un po', come dire, è stato un po' frizzante il nostro incontro, però devo dire, quando dite... I radicali, cioè com'è la frase? No, c'è scritto i radicali. Allora bastava mettere una ex davanti, ex radicali, perché io adesso ho chiesto a Melega, scusa, a chi ti riferisci? A Capezzone, alla Roccella, a Taradas, dico vabbè, allora mettiamo le cose in chiaro. Prima, a pagina 70, diciamo tutte le cose fatte bene, alla fine ci sono anche io quando l'ho letto ho detto boh, si riferirà, non so, a qualche extra parlamentare di nuovo che io non... ma non sono mica radicali, sono ex radicali. Comunque, detto questo, chiuso l'episodio giusto per chiarire, perché da una parte ringrazio e dall'altro mancava un ex che mi aveva lasciato un po' perplessa. Comunque, tutto questo, cosa dire? Nella nostra regione le cose funzionano bene, è inutile dire, è una regione che fra le prime ha adottato la RU 486, adesso la RU è diffusa, mi dicono, in tutti gli ospedali della regione, quindi non siamo in Emilia Romagna il problema. I problemi ci potranno essere in alcuni paesi, in alcuni ospedali, però il problema è altrove. Il problema è di tutto il nostro paese, della legge 194, che è quella che disciplina comunque le interruzioni volontarie di gravidanza. Comunque, per parlare della RU 486, sottolineare il fatto che per 20 anni, è da 20 anni che esiste questo farmaco, e per 20 anni è stato assolutamente un tabù. 10 anni fa un medico a Torino, Silvio Viale, all'ospedale Sant'Anna, ha cominciato a utilizzarlo. Ci sono state sospensioni, indagini della magistratura, indagini parlamentari. Il farmaco, tra l'altro, veniva acquistato all'estero con la famosa legge di Bella, perché non si poteva avere. Quindi è stata... Come? Non per Silvio Viale, ha fatto un altro percorso. Vabbè, sono stata imprecisa. Per me nel 2001 l'ospedale Sant'Anna a Torino, poi c'era Silvio Viale in mezzo, dico comunque hanno cominciato poi tantissime altre regioni, tra cui l'Emilia Romagna, la Toscana, e quindi non possiamo assolutamente dire che... che da questo punto di vista i problemi che comporta però l'assunzione, quella che dovrebbe essere fatta dappertutto, perché esiste una legge e questa legge stabilisce che le donne possono interrompere volontariamente la gravidanza e quindi questo servizio dovrebbe essere garantito da tutti, da tutti gli ospedali e da tutte le strutture che lo possono fare. Quando però è stata approvata la legge 194, perché è vero come diceva Katia all'inizio, la legge 194 è sotto attacco, la 194 è sempre stata sotto attacco, però bisogna anche dire che la 194 è una pessima legge. Allora, il fatto che sia sotto attacco non significa che noi non dobbiamo dire quello che è, cioè dirlo può anche essere positivo, perché magari con il tempo ci possiamo preparare, appena ci sarà l'occasione, magari di migliorare, perché quelli che noi oggi stiamo sottolineare come punti negativi, la presenza ad esempio delle associazioni di volontariato cattolico, l'obiezione di coscienza, sono tutti effetti di quella legge. È una legge che nasce ipocritamente e con un nome che dice tutto: legge per la tutela della maternità. Allora, siccome non è una legge per la tutela della maternità, ma è una legge per l'interruzione volontaria della gravidanza, sarebbe soprattutto opportuno distinguere le due cose. Cosa ho detto? Distinguere le due cose e fare eventualmente due leggi, tutelare la maternità e stabilire delle regole per l'interruzione volontaria della gravidanza, che può essere dalla RU all'aborto chirurgico. La conquista dell'aborto farmacologico, che è una conquista, però in realtà bisogna sottolineare che tutte le falsità che vengono messe vengono messe dal campo avversario in circolo, soprattutto questo fatto che l'aborto chirurgico sarebbe più semplice, più facile, indurrebbe una maggiore abortività fra le donne, ecco, è la prima falsità, perché in realtà proprio per il fatto che è un aborto non fatto sotto anestesia, effettivamente dà una responsabilità maggiore alla donna che sceglie di seguire questo percorso, che è più naturale, ma che anche può anche essere più doloroso, comunque anche più difficile, perché è una consapevolezza maggiore rispetto a un'anestesia. Quindi questo tipo di conquiste, che noi diciamo sono conquiste perché abbiamo lottato e oggi le abbiamo e ce le dobbiamo tenere, però è anche vero che la riduzione degli aborti che c'è stata una grandissima riduzione degli aborti del 60% rispetto a quelli che c'erano all'inizio, nel 1978, negli anni 80, quando è cominciata ad essere attuata la legge. Ci sono i problemi con le donne immigrate, che sono quelle che magari usano malamente le pillole abortive, che sono quelle che magari hanno oggi problemi di contraccezione, e ci sono problemi anche di rapporto con tutta una serie di persone, e le strutture non sono adeguate e non hanno personale sufficienza per poter aiutare anche queste nuove cittadine che non sono in grado evidentemente da sole di poter risolvere i problemi. È anche vero però che il problema della contraccezione, che sarebbe quello associato, pare, no? Dato che si sta parlando di interruzione di gravidanza, quindi la cosa principale sarebbe quella di evitare la gravidanza. Il problema della prevenzione è il problema principale, perché oggi siamo ancora in un paese dove la parola preservativo non si può dire né in televisione. E quindi cosa facciamo? Cioè, la parola tabù, contraccezione è un'altra parola che non si può dire in televisione, non si può dire, non è che ci sia la legge che dice non potete dire la parola, però siamo in un clima, ma non oggi, non c'è mai stato un momento nel quale la questione della prevenzione della contraccezione sia stata prioritaria, perché l'unico modo per abbassare gli aborti è quello di far sì che i consultori siano, ma non parliamo di quelli dell'Emilia Romagna, perché noi stiamo sempre qui e ci regoliamo con quello che succede qui, ma rendiamoci conto che per esempio il caso più eclatante è quello della Basilicata, dove il 90% degli obiettori dei medici è costituito da obiettori, e quindi tutte le donne si trasferiscono in altre regioni dove la prevenzione non esiste. Ma non è la Lucania il caso più eclatante, però c'è una grandissima disparità tra nord e sud, allora facevano notare gli autori. Come mai questi obiettori sono tutti del sud mentre al nord ci sono meno obiettori? Il problema anche dell'obiezione di coscienza è costituito dal fatto che spesso chi lavora e fa aborti poi magari si trova spesso penalizzato anche nella carriera, nel lavoro, il superlavoro, fa solo quello, allora poi molti decidono di fare l'obiezione di coscienza per poter liberarsi anche da una quantità di lavoro che ricade sulle loro spalle. Ripetiamo però un concetto fondamentale, che se un servizio deve essere garantito ci deve essere la garanzia che quel servizio ci sia. Allora, questo è un punto sul quale noi dobbiamo continuare a batterci, e dovremmo anche fare delle proposte perché appena possibile si possa rendere la 194 una legge, appunto, che si occupa di interruzione volontaria di gravidanza, ma anche di contraccezione. Adesso noi abbiamo una legge che obbliga le minorenni a chiedere la ricetta per avere la pillola del giorno dopo. Obbliga le donne, ma non solo le minorenni, obbliga le donne a chiedere la ricetta. Tutte devono chiedere una ricetta per avere la pillola del giorno dopo. Anche questa è una cosa da riformare. Quindi quando noi diciamo teniamoci stretta la 194, va bene, grazie. La 194 teniamocela stretta, però sappiamo che nella 194 ci sono dei punti da cambiare. È un discorso questo molto difficile, però anche il fatto che oggi non ci sono i tempi certi, e questa è l'ultima cosa che dico, sulla ricovero e sul fatto che dovrebbero essere l'interruzione dovrebbe avvenire entro 7 giorni, ma in realtà la media è 21. 21 giorni che comportano tutta una serie di disfunzioni e di disagi per la donna stessa. Allora sono tutte cose queste da tenere presenti. È un confronto con la parte opposta che sta attaccando direttamente. Cioè non è che il fronte antiabortista faccia le cose sotto banco. Le cose le fanno chiaramente, dicono, scrivono libri di tutto, quindi anche noi, secondo me, dovremmo cercare anche di fare un passo in avanti, difendere quello che abbiamo, ma lottare anche per migliorare, cambiare apertamente quello che non va, che è proprio nella stessa legge 194. Grazie. Grazie Monica. Sì, grazie. Sì. Allora, volevo cominciare con una piccola notazione personale. Io praticamente quando ho cominciato ad occuparmi di consultori, contraccezione e anche aborto, proposte di legge, poi referendum, eccetera, avevo praticamente l'età di mia figlia, cioè che mia figlia ha adesso. E ci pensavo oggi venendo in treno e pensavo che è impressionante, no? Cioè io allora ero adolescente o comunque una giovanissima donna, adesso sono la madre di una giovanissima donna e siamo sempre più o meno allo stesso punto, no? Rispetto a quanto lo Stato prenda sul serio la capacità morale e decisionale delle donne, e quanto bisogna continuamente strappare terreno, che se no rischiamo di perdere. Questa è la prima cosa che volevo dire, scusate, è una cosa personale, ma è veramente impressionante, non basta una vita, potremmo dire, no? Però adesso voglio entrare un po' nel merito, se no poi passano troppo in fretta questi 10 minuti. Come avrete sentito, io sono membro di una commissione bioetica. una commissione bioetica un po' particolare, perché è la commissione bioetica di una chiesa che è cristiana ma non è cattolica, no? Protestante, noi non abbiamo magistero e quindi tutto avviene sulla base di discussioni. In questa commissione bioetica vi è toccato qui una pastora, quindi non una biologa, non una dottora, ma invece una pastora. Però nella nostra commissione, la nostra commissione è caratterizzata appunto per l'essere formata da diverse competenze e noi lavoriamo in questo modo, cioè continuamente con la circolazione di tutte le competenze. A partire da questo vorrei dire una cosa. Io ho apprezzato molto la lettura di questo libro sulla RSU 486 perché finalmente qualcuno dice una verità, cioè dice le verità dal punto di vista scientifico. Allora, una cosa a cui vorrei che fossimo attente e attenti oggi è che purtroppo in Italia, quando si tocca il campo della bioetica, può essere la pillola RU486, può essere la pillola del giorno dopo, può essere il testamento biologico, le staminali, eccetera, noi siamo in presenza di falsificazioni dei dati scientifici. Io ho fatto un dibattito quando c'era il referendum sulla legge 40 con una scienziata, cioè con una donna di scienze, che ha negato l'esistenza delle cellule totipotenti, no? Perché per lei in quel momento era più importante affermare il suo principio etico di tipo cattolico. Quindi mi sembra importante che impariamo a non nascondere le verità scientifiche, a volte per qualcuno saranno anche scomode, i dati scientifici, e questo credo che sia un diritto che abbiamo tutti quanti, uomini e donne, ma soprattutto le donne, che questi dati scientifici siano presi sul serio e non falsificati. La seconda cosa che vorrei dire, e a cui tengo moltissimo, è che mi pare importante continuare a dire che le donne, noi, siamo dei soggetti capaci di decisione etica autonoma. Tutte le nostre vite si giocano per forza attraverso i nostri corpi e noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci incoraggi ad avere dei bambini, ma siamo in grado di riflettere sulla nostra situazione particolare, su noi stesse, sul nostro desiderio e prendere delle decisioni. Questo lo può fare sia questo è un percorso trasversale che appartiene a tutte le donne. Tutte le donne che io conosco hanno una certa capacità etica autonoma di scegliere. Prima si parlava delle immigrate, io molto recentemente mi sono confrontata con una donna macedone, rom, proprio su questo tema, e mi sono veramente impressionata di come lei era chiara su quello che voleva, sui passi che voleva fare rispetto appunto alla procreazione, dove c'è una cultura che ha molta fatica ad accettare ad esempio la contraccezione, ma lei aveva preso una certa decisione e quella voleva portare avanti. Quindi ho apprezzato le parole sulle donne come soggetto che ha un'etica, una capacità di produzione dell'etica. Questo mi sembra estremamente importante affermarlo, visto che noi portiamo la responsabilità di che cosa facciamo dei nostri corpi e delle nostre relazioni. Questo mi sembra veramente molto importante. Vorrei dire un'ultima cosa per quel che riguarda, visto che io faccio parte di una commissione bioetica di una chiesa, allora ma che cos'è? Com'è possibile? Cosa dovrebbero fare le chiese, ad esempio? Allora, io penso che, sono molto convinta che la scelta di una persona credente è la scelta, una scelta che scaturisce dal suo essere credente, e che quindi le scelte di persone che hanno fede in Dio sono scelte assunte in prima persona. Io non ritengo che questo debba significare dei valori che poi vengono in maniera così assoluta inseriti a forza nella legge di uno Stato che non è una teocrazia, ma che vuole essere uno Stato democratico, uno Stato fondato su un patto tra cittadini, diritti garantiti anche dalla Costituzione, eccetera. Io sono molto intristita da questo cristianesimo che diventa un'ideologia di assoluti e che impedisce in fondo l'esercizio responsabile della libertà, che invece per me è una parola evangelica molto forte. E quindi concludo riprendendo dall'esempio che vi ho fatto all'inizio. Certamente ero più contenta e più incosciente quando ho visto nascere i consultori, prima a Torino, poi a Roma, e facevamo le manifestazioni e riflettevamo con molta sottigliezza proprio su questo rapporto fede, decisione, l'etica, eccetera, di quello che io non sia felice adesso, in cui sono anche un po' stanca di dover sempre ribadire. Mi rallegro però di vedere qui così tante persone che lo desiderano, e mi piacerebbe poi che si potesse anche moltiplicare questo discorso anche per le ragazze, cioè le donne giovani, ecco, diciamo meglio. Bravo. Adesso la parola a Corrado Melega. Io sono saltata sulla sedia, Monica, la legge 194 è una pessima legge, lo sappiamo. Lo sapevo, infatti, io faccio parte di quella categoria, quel gruppo, quel consistente numero di donne che, va bene, che in questo momento soprattutto dice la legge 194, non si tocca. Anche perché sta succedendo una cosa, e su questo chiederò a Corrado che ce l'ha anticipato, sta succedendo una cosa, che la legge 194 si sta svuotando dal di dentro a causa dell'obiezione di coscienza. Esatto. È una, non, per, in tante realtà ormai non si riesce. Se Corrado ci dice un po' anche della realtà dell'Emilia Romagna, oltre della RU486, ci offre anche degli elementi di informazione assolutamente necessari per essere molto vigili sulla la piena applicazione della legge anche in questa regione. Grazie. Grazie a te. Dunque sì, anch'io faccio parte della schiera di quelli che pensano che la legge 194 sia una buona legge. Ma qui ci sono due concezioni filosofiche diverse, quella dei rivoluzionari totali che non ottengono mai niente e quella dei mediatori che qualche cosa ottengono. Il problema volevo prima dire qualcosa su Viale, che dice che per aggirare il problema dei divieti sull'RU, ideò un metodo diverso. Disse: io faccio una sperimentazione, e fra l'altro forzando un po' la cosa, perché non c'era bisogno di nessuna sperimentazione, perché questa pillola era già stata validata in sede europea. Allora, cosa vuol dire quando uno fa una sperimentazione? Presenta un protocollo di indagine che deve essere rigidamente seguito. Poi questo protocollo gli dà la facoltà di acquisire una determinata quantità di farmaco che lui poi può usare. Viale ottenne, credo, 100 o 200 pillole. Il problema di Viale qual è stato, che in qualche modo ha rovinato un po' tutti noi, è stato che lui dava le pillole, dopodiché, ma in buonissima fede, perché per carità, dopodiché le pazienti le mandava a casa, non seguendo il protocollo che lui aveva scritto, che diceva che dovevano essere ricoverate. C'è stata una paziente che a casa ha avuto un'emorragia, l'ha denunciato e questo ha scatenato il problema dove, che poi l'ha fermato, tant'è vero che Viale poi le signore che dovevano fare l'aborto farmacologico le ha mandate a me per una certa quantità di tempo. Quello che noi abbiamo fatto invece in questa regione è stato quello di scegliere la via della legge europea che permette di importare i farmaci efficaci anche se non sono commercializzati nella nazione in questione. È una legge che non vale solo per l'RU, vale per tanti altri farmaci. L'RU però ha avuto una fortunata destino di incontrare come primo ministro della salute l'onorevole Storace. Adesso io non chiamo più nessuno signore, perché da quando ho chiamato la Moresi signora mi ha coperto di insulti, quindi io parlo di onorevoli. L'onorevole Storace, il quale ha messo non bastoni tra le ruote, ha messo degli interi tronchi fra le ruote, tant'è vero che per esempio io, che ero responsabile del servizio al maggiore, ogni tanto ricevevo una lettera dalla dogana dell'aeroporto che diceva: guardi che lei ha sbagliato, perché i primi 100 casi li ho fatti solo io, perché volevo essere sicuro che ci fossero seguite tutte le regole. Guardi che lei ha sbagliato, deve scrivere questo, se continua così non gliela troviamo più. E c'è una serie di ostacoli che sono da Parigi ci metteva prima 5 giorni, poi ci ha messo 6, poi ci ha messo 7, perché gli ordini dovevano essere fatti in originale, non online e non per fax. Quindi è stato veramente un calvario. Poi alla fine siamo riusciti a farla passare. L'assessore, che allora era Bissoni, ha convocato, e in questo secondo me sta la prima peculiarità di questa regione, ha convocato i professionisti di tutta la regione, cioè non sono stati i funzionari della regione, sono stati i ginecologi della regione che si sono riuniti una, due, tre, quattro volte e sulla falsariga dei metodi che venivano usati all'estero, non ci siamo inventati niente noi abbiamo preso il metodo del Royal College inglese, l'abbiamo confrontato con quello del collegio americano di ostetrici e ginecologia, abbiamo estratto i nostri documenti. Sono sette documenti che riguardano la presa in carico della donna in consultorio, la presa in carico della donna che sceglie l'aborto farmacologico, la presa in carico della donna che sceglie quello chirurgico, il consenso informato, una nota informativa che viene data a tutte le donne e che spiega loro cos'è questa pillola e quali sono i problemi che può dare, e una nota informativa che riguarda anche l'aborto chirurgico. Viene data anche nel consenso informato uno specchietto che mette a confronto gli effetti collaterali della RU e dell'aborto chirurgico, che ha uno specchietto che mostra le complicanze dell'RU e dell'aborto chirurgico, alla faccia di chi ci ha accusato di non essere scientificamente esatti. Si parla di morti, le morti sono, come dico sempre, è inutile dire la pillola RU provoca 22 morti, non ha nessun significato, bisogna vedere cosa succede con gli altri farmaci, cosa succede se va avanti con la gravidanza, cosa succede se va avanti l'aborto clandestino, che esiste in Italia, esiste ancora, si parla di 15-20 mila aborti l'anno clandestini, quindi è inutile nasconderci dietro un dito. Purtroppo però in Italia, contrariamente al resto d'Europa, lo diceva prima Katia, la piaga è quella dell'obiezione di coscienza. Perché se all'inizio, questo e qui Monica dissento da te, perché all'inizio l'obiezione di coscienza è servita, perché veniva questa legge, diceva a gente che era diventata ginecologo, ostetrico, ma molto prima della legge, diceva: tu devi interrompere una gravidanza. E io capisco che quella gente, io ero fra quelli, però io ho scelto un'altra strada, che quella gente fosse in qualche modo restia a interrompere gravidanze. Io parlo degli anni 70, quindi erano anni in cui era un po' più difficile essere laici o comunque pensare laicamente. Allora dicevo, l'obiezione di coscienza in quel momento ci ha permesso di avere una legge. Peraltro Io lo dico sempre, questi anni 70, così spesso sputazzati, sono stati una epoca di grandissimo livello, perché oltre all'aborto e al divorzio abbiamo avuto i decreti delegati delle scuole, lo statuto dei lavoratori, il diritto di famiglia, la legge Basaglia, grazie. Proprio te, proprio no, te. No, ma la Sandra è sempre, sempre bella da sentire. E abbiamo avuto una serie di cose, poi hanno rapito, hanno ammazzato Moro ed è finito tutto. Però, ripeto, in quel momento era giusto, secondo me, fare qualcosa. Adesso l'obiezione di coscienza forse dovrebbe essere ripensata, ma non come noi diciamo nel libro, perché io capisco, mi hanno anche rimproverato, mi hanno detto tu vuoi che la gente non faccia più il ginecologo se non accetta di fare aborti. No, io voglio che la gente faccia il ginecologo, voglio anche che se vuole obiettare posso obiettare, voglio però che le aziende sanitarie, trovandoci di fronte a una legge dello Stato, provvedano al fatto che se non c'è nessuno che fa gli aborti lo devono trovare o devono istituire un servizio apposito, un servizio ad hoc. Io mi ricordo quando ero primario a Cesena, allora il Partito Repubblicano faceva tutto in Romagna, era il padrone, non si muoveva foglia d'edera che il Partito Repubblicano non volesse. Bene, quando io sono andato a Cesena, una parte del Partito Repubblicano mi ha avversato. Il primario dell'anestesia, che era un notabile repubblicano, ha deciso che io gli ero antipatico e quindi ha costretto tutti i suoi anestesisti a obiettare. Bene, l'azienda di Cesena ha creato dei gettoni per cui venivano gli anestesisti da Ravenna a 500.000, allora c'era la lira, 500.000 lire la seduta. Quando è andato in pensione il primario anestesista, gli anestesisti cesena hanno detto: ma noi siamo i più cretini, lasciamo prendere 500.000 lire a questi di Ravenna? No, smettiamo immediatamente di essere obiettori. Cosa mi serve questo? Per dire che molte delle obiezioni sono di comodo. Cioè sono persone che vogliono far carriera, io c'avevo un aiuto che per diventare primario in Calabria ha obiettato, perché mi ha detto, mi hanno fatto capire che questo era uno dei requisiti per diventare primario. Ci sono persone che hanno paura, quando sono assunti hanno paura di essere mandati in sala operatoria a fare solo aborti e non a fare un altro nobile intervento. Ci sono persone, come dice Flamini, che sono la cui moglie è una persona importante nella comunità locale, quindi non vorrebbe che essere additata come la moglie dell'abortista. Ci sono persone che hanno anche obiettato per la loro convinzione morale ed etica, che sono, secondo me, sono ormai la minoranza. L'obiezione di coscienza è arrivata in Italia al 70,5% nel 2007, il Ministero è sempre lento a dare i dati per quello che riguarda i ginecologi, è arrivata al 52,3% per quello che riguarda gli anestesisti, al 40,9% per quello che riguarda il personale non medico. In Emilia-Romagna, perché questo fatto va a macchia di leopardo, in Emilia-Romagna, sono già arrivato? In Emilia-Romagna siamo purtroppo per fortuna al 53%, al 51% in Emilia-Romagna, mi ha dato i dati del 2008, al 51% di ginecologi, al 36% di anestesisti e al 24% di personale non medico. Questo però cosa significa? Che noi abbiamo molte migrazioni, cioè abbiamo persone che vengono dalle altre regioni per interrompere la gravidanza. Vengono, come per esempio nel Veneto, in molte aziende non si può interrompere, ci sono alcune aziende che quando una donna chiede di interrompere la mandano subito dall'assistente sociale e dalle associazioni di volontariato. Allora, la legge 194 parla di associazioni di volontariato, ma lo dice molto chiaramente, sono l'ultima l'anello della catena, cioè quello che decide, che accoglie è il medico. E su quello è un'altra cosa che io vorrei sottolineare, la legge è chiarissima, dice che deve essere il medico che accoglie la persona, che fa il colloquio, e se il colloquio dimostra qualche ostacolo, il medico deve servirsi del servizio sociale del comune o del consultorio a Bologna del comune, perché nel consultorio non ci sono assistenti sociali. Solo allora, nel caso ci sia un'associazione di volontariato, ci sia bisogno, è il servizio sociale che deve rivolgersi all'associazione di volontariato. Che devo dire, non possono essere demonizzate, perché io, come primario di un servizio di ostetricia, ho visto negli ultimi anni molti abbandoni, molti bambini che vengono partoriti abbandonati per ragioni varie. E in questo caso le associazioni di volontariato ci sono state molto utili ad avere il bambino in affido, a trovare delle famiglie che li tengono, ma parlo di qualsiasi tipo di associazione, però in realtà sono in grande maggioranza cattoliche. Il problema, o confessionali, il problema dell'obiezione di coscienza è un problema che in questo momento, come io dico sempre, è l'unica mina che viene posta sul cammino della 194. Quando in comune io ho avuto una discussione molto violenta con una di queste associazioni, anzi in azienda, l'associazione Giovanni XXIII di Don Benzi, non dico buonanima perché non è buona, abbiamo avuto una discussione molto forte. Io le ho detto: guardi, non si preoccupi, se continuate così tutti obietteranno e la legge 194 morirà. Questa signora, che fino a quel momento aveva detto no, per carità, non si tocca perché è una legge dello Stato, noi siamo favorevoli, mi ha detto: beh, noi non speriamo altro. Quindi questo è l'atteggiamento che queste persone hanno. In realtà la legge 194 è una buona legge, perché oltre a queste cose dice anche delle cose che sono disattese. Per esempio la 405 del 75 dà una chiara indicazione di quanti consultori ci debbano essere in una regione. Non viene, forse neanche in Emilia Romagna viene rispettato questo numero, e già siamo a livelli superiori. Dice che debbano essere fatti dei corsi per la contraccezione, per l'educazione sessuale, per la pianificazione familiare, non vengono fatti mai. Dice che bisogna fare ricerche su mezzi che possano interrompere la gravidanza tenendo conto della integrità fisica e psichica della donna. Adesso abbiamo l'RU 486, la quale però non è più facile, non è un aborto facile come dicono Rocelle Morresi nel loro secondo libro, perché il primo libro della Rocella era stato l'aborto facciamolo da noi, facile, gratuito e via così. E quando io gliel'ho fatto vedere alla Rocella questa copertina, quando gliel'ho fatta vedere, sapete, lei mi ha detto: ma dottore, uno può cambiare idea. Certamente, per carità, lei ha cambiato idea. Quello che io volevo farle notare è che gli opposti estremismi non portano da nessuna parte, cioè nel senso che questi aborto libero e gratuito non era possibile nel 78, se no non si sarebbe fatta la legge. Questo aborto facile è una stupidaggine che loro si sono inventati. Quindi il problema della legge 194 è un problema legato a una imperfetta applicazione. Un'altra cosa incredibile è che l'articolo 22 di questa legge permetterebbe la sterilizzazione. La permetterebbe, perché abroga l'articolo del codice Rocco dei delitti contro la razza, no? Bene, si sono inventati, per fortuna adesso non hanno neanche più coraggio di dirlo, ma si sono inventati che l'articolo 5, credo, del codice civile vieta le mutilazioni personali, e quindi i primi medici, i primi di noi che hanno fatto una sterilizzazione sono stati sottoposti a processo. Mi ricordo Conciani, tanto per dirne uno, che adesso è morto, ma chi negli anni 70 si occupava di queste cose lo conosce bene. Quindi io quello che dico è: questa legge per adesso salvaguardiamola. Finisco dicendo che noi continuiamo a fare il day hospital, e sapete cosa succede? Che quando siamo andati a Roma per il primo giro di pareri sull'RU, tutte le regioni hanno detto le loro cose che ricoveravano, noi abbiamo detto no, noi facciamo il day hospital. Nessuno ci ha contestato, sono stati zitti, ma perché il disegno è che adesso intanto la Polverini ha ridotto i letti e quindi e i medici hanno detto ma non abbiamo letti per ricoverare l'RU e allora non si fa. Poi fra sei mesi diranno sì, le donne che sono ricoverate firmano e vanno a casa, quindi abortiscono a casa e quindi fanno un aborto illegale. E siccome non potranno accusare migliaia di donne o mettere sotto processo migliaia di donne, attaccheranno di nuovo la pillola RU486, che ripeto non è né più facile né più difficile, ha i suoi problemi, dà i dolori, ha le emorragie, c'ha il 5% di fallimenti, quindi non è questa cosa da supermercato. Ma già il professor Flamini ha detto che si è espresso sul fatto che a dire l'aborto facile siano due donne ed è veramente scandaloso. Grazie. Intervento qui dal tavolo, Betty delle Sexy Shock, e poi c'è ancora spazio per qualche domanda, qualche riflessione dal pubblico. Betty, se ti vuoi accomodare. Ciao, io invece faccio parte di un gruppo che è nato nel 2001 e faccio parte anche di questa generazione di donne che non ha mai vinto niente, perché c'è chi è tornato a casa con una legge che si può anche dire brutta o non è brutta, che è la legge 194, la legge sul divorzio. Invece mi ritrovo con la legge sulla procreazione assistita che fa schifo, mi ritrovo con la legge sulla Gelmini per la scuola. Quindi diciamo che siamo proprio una generazione di sfigate, però, Cioè, e cosa succede? Succede che è anche difficile portare avanti delle battaglie sapendo che, cioè, non vinciamo mai niente e diventa proprio frustrante. E il nostro gruppo è nato proprio sull'onda delle battaglie che si facevano a Bologna sulla 194, proprio in quel periodo, e sui consultori, perché c'era un attacco ai consultori, come sempre, in particolare nel comune di San Giovanni, di Zola Predosa. Ecco, quella l'abbiamo vinta, quella è stata piccolina, ma siamo riusciti in quella della Zola Predosa. E non abbiamo mai lavorato da sole, ovviamente abbiamo sempre lavorando, costruendo delle alleanze con le altre donne della città, fino anche sulla procreazione assistita, su un referendum. Invece le alleanze sono state allargate e noi ci siamo entusiasmate quando abbiamo iniziato a parlare non solo di autodeterminazione e dei diritti delle donne eccetera, ma anche dell'accessibilità alle tecnologie e alle biotecnologie. Noi abbiamo iniziato a fare questi discorsi partendo, non c'entrava niente nel corpo né le donne, si parlava proprio di accessibilità alle tecnologie, di internet, dei computer, renderli degli strumenti più, insomma, facili da utilizzare, mettendoci le mani eccetera, con passaggi di competenze. E da lì abbiamo iniziato a ragionare, ma perché non applicare questi discorsi che noi facciamo su internet e sulle tecnologie anche sulle biotecnologie? E quello era il periodo in cui si parlava della procreazione assistita e abbiamo lì iniziato a creare, a costruire delle alleanze, quindi soggetti che per noi non erano mai stati i nostri alleati e referenti, che erano i ricercatori universitari, gli scienziati, diciamo, quelli che dovrebbero poi diventare gli scienziati, se ce la faranno mai, visto la sfiga della nostra generazione, precariato eccetera, e anche alle famiglie di persone non militanti, non schierate politicamente, ma che erano, non so, c'era un bimbo, appunto, adesso non mi ricordo che cosa, comunque associazioni di famiglie che cercavano di accedere alle procreazioni assistita. E quello ci ha dato una grande gioia, perché abbiamo visto, è fatta qua, cioè se noi uniamo le femministe con tutti i militanti insieme agli scienziati e a queste famiglie che devono usufruire di questi servizi, vinciamo. Abbiamo perso, procreazione assistita. E da lì, insomma, c'è stato un declino proprio di gioia nel fare politica e nel crederci, che sono i motori, insomma, portanti poi della riuscita delle battaglie. Ci ritroviamo adesso anche con l'RU e di nuovo gli attacchi al 194 e sinceramente siamo un po' così. Faccio questo intervento un po' così, che non voglio farvi tornare a casa tristi, Tanto poi dopo c'è l'Italia che gioca alle 8:30 magari, chissà, cioè, se il fiore solleva. Però questa è la situazione. L'unica cosa che mi viene da dire sicuramente è che bisogna essere, dal punto di vista dell'obiezione di coscienza, machiavellici a questo punto, perché se il problema non è solo quello proprio dell'obiezione vera di etica, ma è una questione proprio tecnica di carriera all'interno degli ospedali, come la risolviamo? E poi quello su sicuro eliminare tutti gli ostacoli che portano all'RU, che è quello proprio di togliere ogni ignoranza, visto che ovviamente l'ostacolo più grosso è quello di dire che è appunto una pillola che non va bene, che bisogna poi stare 3 giorni in ospedale, che eccetera eccetera. È ovvio che una donna che non trova gli strumenti per informarsi fa anche fatica ad accedere appunto a questa tecnologia, chiamiamola, no? E quindi la mia domanda è, e la porgo ai loro signori, è una domanda machiavellica, ma quindi se l'RU diventa proprio una baza che tutte vogliono questa RU, e di conseguenza i ginecologi che fanno obiezione di coscienza, questi ginecologi qua non hanno più bisogno di obiettare, perché loro dopo non vengono, no? coinvolti, cioè non sono bloccati a fare solo dei gran aborti, giusto? Quindi questa è una strada machiavellica che può servire per dar battaglia all'obiezione di coscienza, giusto? Ok, vedo degli spiragli di luce. E quindi dobbiamo lavorare molto bene sulla diffusione di questa RU, giusto? Giusto. Cioè, insomma, abbiamo degli spiragli di luce o no davanti a noi? Perché se no la vedo veramente, cioè, tutti gli interventi che sono stati fatti fino adesso sono molto di quello che abbiamo conquistato e quello che non abbiamo più. Insomma, cerchiamo di andare un po' avanti, se no. Sei stanca adesso? Sì. Però non c'è la sala operatoria, non c'è il chirurgo. Vai in sala operatoria. Sì, però non ci sono meno strutture coinvolte, perché non c'è la sala operatoria, ecco. E vabbè, però fa prima. Uno che non è obiettore. Questa è la legge che prevede che sia il medico. Sì, ma scienza e coscienza non vuol dire. Sì, però c'è meno coinvolgimento, dai. Allora. Grazie te. Sì. Hai finito? Sì, sì, era tutto. Sì. C'è davvero un po' di spazio, alle 8 dobbiamo chiudere, ma c'è davvero un po' di spazio se ci fossero domande o valutazioni, interventi. Io intanto però nel frattempo volevo ringraziare Angela Tianese e Elisabetta Cammelli, a cui si deve davvero la cura e il lavoro su questa, nella preparazione di questa iniziativa. Sono della rete Laica, mi sembra il minimo. Domande, interventi? Certo, Sandra. Mi meraviglia. Esatto. Ce lo siamo chiesti. Vieni sulle mie ginocchia. No, no, vieni qua, Sandra. No, io volevo sapere, proprio perché, cioè, io credo che questa legge qui l'abbiano ostacolata soprattutto per ragioni tecniche molto, cioè, nel senso che loro speravano veramente di svuotare la 194 man mano con l'obiezione di coscienza, e man mano si trovavano quel poveretto che non faceva obiezione di coscienza, si trovava a fare aborti sempre, solo e sempre aborti, e quindi alla fine, come diceva lui, cioè, rinunciava anche lui, e quindi aumentava e le cose diventavano sempre più difficili. Ma c'è un'altra cosa, secondo me, quindi adesso viene semplificata, credo, cioè uno deve semplicemente fare una, cioè dare una pillola a una persona, si beve un bicchiere d'acqua, prima era una cosa un po' più complessa e quindi bastano meno persone. Ma quello che pensa, penso, e sicuramente qualcuno te lo ricorda, eccetera, eccetera, cioè al Sant'Orsola c'erano delle forche caudine, cioè le donne dovevano arrivare il martedì mattina e dovevano superare una forca caudina veramente orrenda, che era Don Benzi, che diceva l'eterno riposo. Noi siamo andati un sacco di volte a contestare, a far casino, eccetera, eccetera, perché non era giusto che una donna dovesse, perché proprio perché noi crediamo alla libertà unita alla responsabilità, quindi sono le donne che si tirano sui figli soprattutto, e quindi devono essere loro a decidere se fare o non fare figli. Quindi, cioè, io credo che anche la RU, con questa sua libertà di distribuzione in qualche modo, eviti quel concentrarsi di aborti proprio in quella mattina, eccetera, eccetera, per cui arrivano tutti gli avvoltoi lì, rendendo una giornata già abbastanza dura. Si è detto un po' troppo, perché io credo che l'aborto sia appunto una scelta dura per un certo verso, ma anche una scelta bella, perché riaffermiamo la nostra libertà e riaffermiamo l'essere nostre, cioè il dominio sul nostro corpo, quindi non ci sentiamo espropriate, quindi ci sentiamo di affermare, e questo è un lato positivo che viene spesso dimenticato quando si parla di questa legge. Però io voglio dire, ecco, volevo sapere da loro se queste forche caudine, se loro contano che con queste, cioè, che queste forche caudine sotto cui dovevano passare le donne, io mi ricordo alcune scavalcavano un muretto lontano per non passare lì in mezzo, erano delle scene veramente molto brutte, alle 7 del mattino con questi qui che, vabbè, appunto l'eterno riposo, non me lo scorderò mai. Ecco, facilita questa cosa, evita le donne queste cose qui, perché credo proprio che da un punto di vista tecnico sia importante. Posso dare delle cifre? Tanto al maggiore non succedeva mai, perché il maggiore è un covo di comunisti, quindi stavano ben attenti a non prendere botte, quindi non venivano a... Allora, ti do delle cifre. In Emilia-Romagna nel 2008 sono stati fatti 11.124 interruzioni di gravidanza, di cui 526, cioè il 4,7%, farmacologici. Tieni conto che siamo ancora nell'epoca dell'importazione. E poi questa pillola deve essere data entro i 49 giorni di amenorrea, cioè la settima settimana. Quindi sai, una si accorge di essere incinta, ne parla col compagno, prende delle decisioni. È possibile che passi il termine. Però nel 2009 le IVG totali sono stati 10.826, cioè una diminuzione del 3% rispetto al 2008, e invece un aumento lieve della RU. Quindi non è vero che la RU facilita, cioè aumenta il numero di aborti, come dicono. Il numero di aborti continua a calare, fra l'altro ultimamente, ed è una cosa che io ho visto con grande gioia, nell'ultimo anno sono calati anche le interruzioni di gravidanza delle donne straniere. Non solo, ma la Giovanna Caccialuppi, che come voi sapete dirige un consultorio che si occupa della salute delle donne straniere e dei loro bambini, mi ha detto poco tempo fa che sono aumentate moltissimo le donne straniere che ritornano dopo l'interruzione di gravidanza per un colloquio, per un controllo, e questo non succedeva all'inizio. Questo consultorio era preso solo come uno strumento, come un taxi. Quindi il problema, e volevo rispondere anche alla signora che diceva prima, il problema del che lo dia al medico, è certo, questo lo dice la legge, non si può, però siccome l'obiezione di coscienza è in gran parte fatta da persone che non vogliono andare in sala operatoria perché temono di essere confinate lì, questa pillola, non permettendo di non andare in sala operatoria, potrebbe, io non lo so, Sandra, non lo so, potrebbe fermare questa emorragia di obiezione di coscienza. Questo è quello che io penso che questa sia la ragione, mi riferivo a quello che diceva Betty prima, sia la ragione per cui questa pillola viene osteggiata così ferocemente, perché credo che i suoi nemici pensino questa cosa qui, perché altrimenti non si capirebbe. È come la storia dei farmacisti che con l'obiezione di coscienza la pillola del giorno dopo. Come diceva, io ho sentito una volta un'intervista con Garattini, che giustamente diceva: io non capisco, in farmacia si vendono ogni genere di schifezze mai validate, mai accertate, fatte di erbe, non si sa bene di dove, cosa. e venderebbero, sono dei bazar, e adesso si mettono a fare obiezioni di coscienza, vendono delle cose di cui non sanno gli effetti collaterali, però sulla pillola si mettono a fare obiezioni di coscienza. Posso? Sì. Volevo ricordare innanzitutto a Corrado che il signor Orcella e la signora Morresi ci hanno accusato di essere servi delle multinazionali, atei e comunisti. Noi abbiamo chiesto per atei e comunisti di patteggiare. E servi delle multinazionali? No. Suo, ecco, quello, sua, no. Sua sorella. Sua sorella. Ho un ricordo di Don Benzi, ne parlo da vivo, perché è un ricordo di Don Benzi. Don Benzi mi mandò una volta dei suoi fedeli, insomma, perché volevano gli embrioni malati scartati con le diagnosi preimpianto. Una cosa terribile, cioè scambiavano un atto di compassione delle mamme che dicevano questo non lo faccio nascere perché nasce un disgraziato, per un atto, che ne so, di disprezzo, di buttavano via. Quindi immaginate una mamma, io non lo faccio nascere perché ho compassione per mio figlio, però lei sì lo fa nascere, che cosa se ne fa della mia compassione? Ed io credo, lo dico con molta serenità, senza nessuna cattiveria, che questo paese abbia molto più bisogno di compassione che di religione. Ecco, credo che questo sia il problema di questo paese, che non c'è compassione e c'è soltanto aggressione e cattiveria. Allora Don Benzi gli andarono a dire che io mi ero infuriato e così, e lui disse, disse: Flamini è ora di conversione. Io mi sono spaventato, perché cosa sa? Aiuto. Lui, ecco, dico, sì, che sa qualcosa che io non so. Quando è scomparso, dico la verità, ho tirato un sospiro di sollievo. Un niemeo. Voglio dire due cose, finisco brevemente. Una sulla 194 buona legge. Io dico che è una buona legge anche perché è solida. Perché guardate che di attacchi ne... Pensate a una legge cattiva che è la legge 40. La legge 40, ogni volta che uno gli fa una scoreggia ne vanno in pezzi due articoli. Tutti i magistrati che l'hanno esaminata l'hanno bocciata da qualche parte. La Corte Costituzionale l'ha fatta a pezzi, perché è stata scritta per essere corretta. Chi l'ha scritta diceva a me, quando mi chiamavano in Parlamento, non rompere le scatole, abbiamo riempito la legge di passerelle, che sono delle vie di fuga. Solo che le passerelle non reggono di fronte ai magistrati, questo è il problema. Questa legge regge, è stata scritta. Poi può non piacere, è il frutto di un compromesso, ma è il compromesso più alto che si poteva ottenere in quel momento. E sono spaventato dall'idea di riaprire una discussione, perché in questo momento la scena politica è questa, è una scena politica che è caratterizzata da una fuga di ex radicali che sono andati a fare le pittime e li trovi tutti là. Sai, il fatto di cambiare così gabbana, così radicalmente, io sono forlivese, in Romagna i volte che vanno non piacciono, e c'è una storia abbastanza... ma molto vera. C'era un vecchio nel 1913-14, c'era un giovane repubblicano amatissimo a Forlì, perché parlava bene, perché era un leader nato. Solo che a un certo momento cominciò a vedersi meno, si seppe che si era sposato la figlia di un industriale che era un parlamentare liberale, poi lui si presentò con i liberali e poi dopo passò anche lui ai monarchici, un disastro. Poi arrivò il 14, la discussione sull'entrata in guerra, e lui chiese di fare un intervento e glielo organizzarono al teatro municipale di Forlì, che è stato distrutto dalla guerra. E immaginate la scena, lui va lì con la giovane moglie, pieno in ogni ordine di posti, lui è molto contento, si avvicina al proscenio per parlare e tutta la platea, tutti quanti erano pieni, si alza in piedi, tutti ci tolgono la giacca, se la mettono alla rovescia e si mettono a sedere, e lui ha preso su il suo 31 e se n'è andato, inseguito vanamente dalla moglie. Cioè, io capisco che si possa cambiare, ma bisogna incontrare tutta sta gente che incontra la Madonna per strada. Ma come mai che io non me li ricordo? È un fatto poco antropologico, è un fatto topologico questo proprio. Questi sono dei topastri di fogna vedono che c'è una nave che affonda e corrono rapidamente dove invece c'è un terreno più solido dall'altra parte del Tevere, credo che sia questo. E oltretutto cosa fanno? Sono tutti atei esattamente come sono ateo io, vendono l'anima che non hanno a un Dio in cui non credono. Se il Dio gliela compra è in cauto acquisto, cioè c'è una serie di reati coinvolti in questa storia qui. Dico solo una cosa ultimissima sugli obiettori di coscienza. Io sono quello che dice che gli obiettori di coscienza non ci debbono essere più, o che debbono andare a fare un altro mestiere, perché dico che non si mette un musulmano a vendere la carne di maiale o un testimone di Geova a fare le trasfusioni in un pronto soccorso. È stupido. Per quale ragione, se andate a fare indagini in qualsiasi altra professione ginecologica, ma i ginecologi hanno tante differenti subspecialità, perché se andate a vedere fra i cardiologi, perché si chiedete, ma tu, chiamato a decidere, saresti obiettore? Gli obiettori sono circa il 20%. E solo quelli che vanno a fare i ginecologi sono il 70 o più del 70. C'è qualcosa di marcio in Danimarca. Ecco, e poi magari questa fosse la Danimarca. Sì. C'è prima Angela Tianese e poi do la parola a Angela, devi essere cronometrica. Allora, innanzitutto ringrazio tutti i relatori da parte della rete laica di cui faccio parte insieme a tutti quelli che ne fanno parte. Mi chiamo Angela Tianese, sono un medico e lavoro da sempre, dal 77, nel famoso sottoscala a mettere i diaframmi iniziamo, e prima ancora con l'AED in Puglia, e prima ancora il CAD, esatto, il famoso CAD mitico. Allora, faccio due considerazioni e poi due domande semplici. Allora, la prima considerazione, che partiva dall'osservazione che faceva anche Carlo, è quella dell'indignazione. Cioè, veramente non se ne può più, sono indignata come donna, non posso continuare a sentire che sono un irresponsabile, che sono una facilona, così come me tutte le altre, e che le donne non fanno le cose senza pensarci, che quindi si ritrovano incinte e devono fare l'aborto. Non se ne può più. Allora, la violenza di genere, la violenza domestica è un dato, vero? La violenza di genere e la violenza domestica non sono solo le percosse o anche la coercizione psicologica, ma sono anche richieste sessuali di un certo tipo. Quindi una percentuale di queste IVG è una percentuale di violenza domestica. Quindi è necessario, assolutamente indispensabile, che questa persona possa trovare la possibilità di non portare a termine questa gravidanza in una struttura sanitaria assistita come si deve, con tutto quello che è necessario. Quindi questo è un dato che non viene mai fuori, che deve venire fuori. Allora, l'altra considerazione che facevo sempre da questo punto di vista è che, appunto, un altro dato che è noto e conosciuto quando ci appioppano il solito servizio pruriginoso sulla prostituzione, che ci devono depistare, distrarre, eccetera, il dato che continuamente viene fuori è che il maschio italiano è disposto a pagare, anche, cioè che richiede ed è disposto a pagare di più anche per avere un rapporto anche mercenario non protetto. Quindi io inviterei, questo dato deve venire fuori, quindi inviterei istituzioni, politici, associazioni a impiegare le loro forze invece che massacrare ancora le donne e penalizzarle, ma inviterei tutte queste forze a concentrarsi per fare delle campagne educative rivolte ai maschi, va bene? Su una loro maggiore responsabilizzazione dei comportamenti sessuali. Poi l'ultima considerazione che faccio, sì, velocissimo anche qui. Allora, ovviamente le questioni di interruzione volontaria di gravidanza, di sanità ginecologica pesano la maggior parte sulle spalle delle donne, anche per i motivi che ho detto prima. Però non è vero, questa gente che si riempie la bocca di famiglia, famiglia, famiglia, famiglia, l'interruzione volontaria di gravidanza in un numero di percentuale, cioè in una percentuale abbastanza cospicua, è un problema di famiglia, cioè è la coppia che si trova a dover affrontare questo problema. Quindi non massacri solo la donna, massacri anche la famiglia, e anche questo deve venire fuori. Le domande sono molto semplici: il mifepristone come farmaco può essere usato solo per l'interruzione di volontaria di gravidanza o anche altri utilizzi? E quindi in questo caso per 20 anni noi, popolo italiano, siamo stati privati anche di questi altri utilizzi. E poi dopo l'altra domanda successiva, ci sono studi in corso e qual è lo stato dell'arte per la ricerca su una anticoncezione medica o con altro metodo maschile? Prego, se si presenta lei. Sì. Grazie. Sì, buonasera, io mi chiamo Fabio Tartarini, sono consigliere provinciale, ma anzi mi dispiace non essere arrivato prima, proprio lunedì abbiamo il consiglio. No, ero interessato, ho sentito alcune cose, mi interessava approfondire perché io sono da poco in politica, però sono quello che un po' ha scocciato in provincia su alcuni temi. Io ho presentato degli ordini del giorno, il primo è stato sul testamento biologico, cercando di farlo approvare. Sono tutti temi, poi l'ho fatto su Idico, poi adesso ne ho presentato uno sulla fecondazione eterologa, perché è stato presentato al Tribunale di Bologna questa cosa. È chiaro che sono un pochino in difficoltà, perché chiaramente c'è una Presidente che è una cattolica, e perché il PD, io sono in maggioranza però non sono del PD, il PD purtroppo ha questa doppia anima e fanno fatica a appoggiarmi su certi temi. Chiaramente adesso faremo una commissione su questa fecondazione eterologa, per cercando di spiegare che cos'è, pur sapendo che il mio obiettivo è quello di farla provare. La provincia di per sé ha dei problemi di visibilità perché c'è un interesse relativo, però sono temi tutti molto importanti, tutti che io sento, anche perché chiaramente sono una mosca bianca, ma anch'io sono, mi reputo agnostico, per cui faccio fatica, sono in una provincia comunque che ha una matrice decisamente cattolica, però sono temi, sono presidente anche della commissione sesta che contiene anche le pari opportunità, quindi mi fa piacere avere uno scambio e portare avanti determinati temi. Quindi ho sentito una persona che ha parlato prima, che diceva appunto, parlava di sfortuna e via dicendo, è chiaro che io nel mio piccolo cerco di portare avanti la mia battaglia, mi fa piacere quindi avere uno scambio per poter portare avanti, nonostante il fatto che purtroppo ci sia una visibilità relativa a determinati temi, perché questi ordini del giorno che ho portato avanti sono stati anche approvati, anche quello sui Dico è stato approvato con l'uscita della Presidente, però trovano poco spazio sui giornali, probabilmente perché trasversalmente non si vuole dare molto fastidio al concetto di gestione anche in un certo senso di base cattolica. Questo è un pochino il problema, per varie ragioni che non sto adesso di illustrare. Però comunque io ho ancora 4 anni, per cui li porto avanti, mi fa piacere portarli avanti in tutti i modi, lo faccio volentieri, quindi vi chiedo una collaborazione. Scusa, no, no, mi faccio dare tutti le cose. Ah, ok, va bene. Lo diamo. No, volevo dire che per quello che riguarda il testamento biologico, in comune è stata fatta una delibera, poi certo all'interno del gruppo del Partito Democratico c'è stata una discussione importante che è andata avanti per un bel po' di tempo, però alla fine abbiamo trovato la quadra e adesso la delibera è pronta. Per quello che riguarda i Dico, le segnalo la finanziaria, ma lei la conoscerà, la finanziaria dell'Emilia-Romagna, agli articoli 48 e 49, che non fa distinzione dal punto di vista del sesso e nell'articolo 48, non fa distinzione dal punto di vista del sesso e delle varie condizioni politiche e antropologiche. mentre l'articolo 49 fa distinzione dal punto di vista del censo e del numero di figli. Quindi in questi campi, sia nei dico che nel testamento biologico, qualche esempio di apertura c'è. Allora, se ci mettiamo insieme, forse qualcosa riusciamo a fare. Infatti sul testamento biologico, sui dico, io proprio l'appoggio all'ordine del giorno di Errani sul 48 bis, li appoggio al suo ordine del giorno, cioè dicendo anche in provincia di Reggio, chiaramente le chiedo scusa, ma ci venga a trovare la rete laica. Ma comunque adesso le scriviamo la mailing list. Io non so se. La mailing list sarai avvisato di tutte le iniziative. C'erano quelle sulla. Sulla anticoncezionale maschile, sì. Una battuta. Il mifepristone serve ad altre cose. La domanda hai fatta tu. Il mifepristone serve ad altre cose, per esempio come pillola del giorno dopo, come forse una terapia per l'endometriosi, ma come l'endometriosi non ha terapia, per i fibromi, per la menorragia, ma in Italia è validato solo per l'interruzione di gravidanza. No. È un farmaco ospedaliero. E l'altra domanda che era sulla sperimentazione maschile, ci sono state varie sperimentazioni, la dottoressa Merigiola della clinica ostetrica ha provato, sono ancora alla fase di sperimentazione clinica, diciamo. Io vi ringrazio a tutti, naturalmente come rete laica ringrazio sia la dottoressa Erika Tomassone e Monica Mischiati, la Betty delle Sexy Shock. Però Monica, molto risentita su questa storia degli ex radicali, vorrebbe un piccolo diritto di replica. No, non la vuole. È soltanto, se mi sembra che Flamini dia colpa ai radicali, no. Ognuno è libero di fare quello che vuole, passano dall'altra parte. Finito lì sembra che noi siamo, come dire, i generatori. Ma no, beh, la gente si iscrive, anche tu ti sei iscritto e non abbiamo mica fatto. Io ho iscritto due partiti. Ecco, non abbiamo. No, tu ti sei iscritto e nessuno di noi ha detto Flamini sì, Flamini no, ognuno è libero. Dai, no, perché veramente lì c'è del risentimento nei confronti nostri. C'è del risentimento come se fosse nostro, frutto la roccella. Gli puoi rispondere.